che questo è l'inferno, e quella che la si vede torreggiar vicina, e la città di regni sua in rovina. E se non mente della fame il grido, parte vicini campi, al romano valor pude ben noto. Pude ve la tossì, ma non fu vinto. Di Roma le tue congiungi, il tuo trionfo è certo, ma qual gente improvvisa noi s'appressa, io vedo nell'insegnante